Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino, ai filmati Paolo e alla direzione tecnica Simone. Uni. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi simpatici amici di Piazza Alta. Ci siamo ancora noi per una nuova puntata, la numero 25. Poi vedi che, intanto buonasera, poi vedi che aumentano perché Paolo ormai è entrato a far parte, lo era già da prima, ma anche ufficialmente nella sigla. Fa per parte del certo. Nostro cast, fa i casting. Sì. Senza di lui mancherebbe è il nostro occhio. E questo è il buonasera. Buonasera a tutti, uscito fuori con le mano alzate. Sara, salve. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, quindi andiamo con la prima canzone. È meglio. Vai, sì, Simone. Sì. Che cos'è che fa la vita storta, che ti fa camminare sul lato sbagliato della via di casa? Dimmi che cos'è che ti fa differente, che ti fa dubitare delle storie che senti dentro le canzoni. Dimmi che cos'è, dimmi che cos'è, dimmi che cos'è che non va, dimmi che cos'è che fa la vita storta, che ti fanno usare l'asfalto e il cemento come se fossi un cane. Dimmi che cos'è che fa la vita nuova, che scrive sulla pelle il motivo che hai per volerne ancora. Dimmi che cos'è, senza direzione, esplode nel cielo sopra la tua testa. Dimmi che cos'è, dimmi che cos'è. La via di casa, questo è il primo brano della scaletta di questa sera, il gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. Ecco, questa è un po' la nostra storia, di Marcello. Sai, se il gruppo fosse stato di Foiano sarebbe stata la via dell'orto. La via dell'orto, ma più che altro la via di casa che noi abbiamo perso ormai da un pezzo con Marcello. C'è poi la scala del... vabbè. Non iniziamo così in modo... triste. Vabbè, già Tre Allegri Ragazzi Morti. No, ma Sara, stasera iniziamo con un ritmo veloce. Sì. Sostenuto andante. Ma bravo, questo dopo. Sì. Ma ora capisco anche perché hai messo questa giacchettina, sì. Ma ne parliamo dopo. Ho capito perfettamente, perfettamente intinta, vedi anche le asticelle degli occhiali. Ma ce l'hai più tipico. Anche la lingerie. Vabbè, parliamo. Questo. No, questa no. Ok. E E questo non lo capirà nessuno, ma non importa. No, non importa, perché ancora i video non ci sono. 25esima puntata di Piazza Alta. Bene. Che per vuote popolari anche questa settimana. Vabbè. Fantastico. Come si ascolta Piazza Alta, Marzi? Come si ascolta? Di solito ecco, con le orecchie. Ancora. Attenzione, ma poi con chiaramente in FM sulla frequenza 101.2 mm-hmm. e con le moderne tecnologie in che streaming sono... che adesso Sara vi andrà a denunciare certo. e denunciare. Allora, diciamolo insieme: in streaming dal sito www.radiof.it oppure ma da quando? Dal 1976, un po' dopo via streaming, però va bene uguale. Invece dagli anni più recenti, da adesso da alcuni mesi, scaricando la app per Android e per Apple. Che si chiama? Esiste sempre. Che si chiama? Come si chiama l'app? Radio F, va bene, non importa. Poi abbiamo anche la pagina Facebook sulla quale potrete ascoltarci da domani. Potrete ascoltare la replica di questa trasmissione che sta andando in diretta, ma poi potete riascoltare tutte le altre trasmissioni. Ma soprattutto con la quale possono i nostri radioascoltatori comunicare con noi, interagire questa sera e mettere tanti mi piace. Abbiamo già pubblicato anche la prima foto con i nostri ospiti, che Sara si appresta a presentarci. Eccoci, pronti. Allora, questa sera abbiamo il signor Lidio Grazzi. Signor. Quanto tempo era? Sottolinea l'età, il signor. Oddio. Potevi dire il piccolo Lidio. Per fare sì, perché lo so, avevo capito. Ma però adesso non il signor lo toglierei. No, ma facciamola. Ma perché signor? Perché Lidio è il papà. No, diciamo che il cognome mi ricorda qualcosa di riguardo, diciamo, tipo il nostro. Come dire, di familiare. Esatto, di familiare. E mentre io è un lessico familiare. Giusto, appunto, stressando la vita al nostro Simone perché non mi sento. Ma forse se alzi il volume delle cuffie. No, è al massimo. Dico sì. Vabbè. Comunque Lidio è il babbo di Simone. Grazie. Pensate voi che ha insistito proprio per. È vero? Confermi? Il tempo passa. Posso dire quello che ha detto prima Simone in fuori onda? Dillo. Che per lui sarà una lunga serata stasera. Ormai l'ho detto. L'altro ospite invece. L'altro ospite a questo punto continuo con il signor Alessandro Bartoli. Grazie del signore. Poi accenniamo solo perché sono qua, Sara. Sì. Sì, mentre Alessandro questa sta. Sera, sì, infatti, però non saprei come descrivere. Comunque vedo c'è una tessera di colore di sfondo giallo con un cavallino rampante. Che è impossibile non identificare. Adesso vado a fotografarla. Adesso vai a che la posteremo. E perché questa sera parleremo del mitico club Ferrari di Foiano. Esatto. E loro sono, come poi ci racconteranno tra un po', i fondatori, nonché insomma quelli che l'hanno ideato. Il cuore pulsante, possiamo dire. Sì, lo possiamo dire come il vuoto. Questa espressione è piaciuta. Quindi di una volta andiamo ancora con un altro brano che spero non sia. Io direi quasi tutti vivi. Per entrare in argomento, vai con il traffico. Cosa non va? Il tempo lo sa. Cosa che hai? Spero, ma non me lo dirai. Sopportarli è un suicidio, sai. Credo credo che non ci sia un rimedio per. Credo che non ci sia un rimedio per me. Ed ecco qua, Simone, che... non si sente, te lo ridico io, sai. Comunque... Aspetta, okay, facciamo no, la facciamo in diretta. Ora mi sento. E allora, ci siamo offerti abbiamo... in quattro per cambiare le cuffie. A posto. Allora, abbiamo appena ascoltato quello che è considerato uno dei migliori cantautori della scena alternative italiana. E anche di questo Marcello è d'accordo. È d'accordo. Voglio proprio sì, sapere sì, chi è. Allora, Matteo Polci. Tra l'altro, lo potrebbe essere anche, non so, conosciuto? No. Certo, chiaro. Molto. Tra l'altro è un cognome toscano, quindi sicuramente capisco, toscano. Mi spiego è di Roma, è di Roma, perfetto. Perfetto. Il famoso alternative. Okay. Però ecco, il titolo del brano è Credo che, tratto dal suo primo EP Tempo al tempo. Vedi, ma noi, cara Sara, stasera non parliamo niente di alternative. No, parliamo dell'assoluto, dell'assoluto, della passione allo stato puro. La passione per italiana più grande, forse mondiale, guarda. Signora. Esatto. E qualcuno potrebbe pensare ad altre cose, inizia con la F, ma è la Ferrari, assolutamente. Va bene, sì, è la Ferrari, e infatti vogliamo dire il colore del giubbottino di Marzi. Marzi si è appena tolto, ma è un rosso Ferrari decisamente. Non l'abbiamo decisamente fotografato, però. No, però c'è, no, c'è no, nella foto. Ah no, si vede sì, nella, c'è foto, c'è nella foto, un pezzettino. Il tono con la serata. Okay. Sì, anche in sino. È rosso, sì, è vero, è vero. Devi sapere, cara Sara. Sì, ha già iniziato. Vai, è vai, partito, va bene, vai, vai, vai, vorrei non dire fermiamo due parole sul club Ferrari di Foiano, perché la leggenda narra che sia nato nella cucina della mamma di Arrigo Bignozzi, la Smara, che io ho un ricordo carissimo anche della Smara, che stava in piazza della Collegiata, e a questo evento era presente anche il nostro Simone, ovviamente un bambino all'epoca. Confermi? Certo che confermo. Arrigo mostrò, si è sciolto stasera, va. Arrigo mostrò al babbo di Simone alcuni Lidio adesivi di club Ferrari attivi in quegli anni e propose l'idea di farne uno loro. La passione per la Ferrari, cara Sara, cari radioascoltatori, e le corse in genere fece il resto. Di lì a breve fu organizzata un'assemblea pubblica in sala Gervasi, alla quale parteciparono tantissime persone. Simone, e anche qui come fu, come non fu, c'è un ricordo di Simone. Chiaro, noi che cosa andiamo proprio sulla memoria. Una sala, infatti, si ricorda di una sala gremitissima. Alti personaggi, ovviamente, oltre a Lidia e Arrigo, erano Alessandro Bartoli, appunto, insieme ospite qui insieme a Lidio. E tra l'altro, ci permettiamo una nota di colore: Alessandro, figlio di Anchise, che è assurdo alla popolarità foianese perché è stato una comparsa. Grosso personaggio che ho avuto anche la fortuna di conoscere. È vero, è vero. E ha fatto anche la comparsa in qualche film western. Dopo Alessandro ci dirà, anzi, se ce lo vuoi dire, in qualche titolo dei film più famosi. Fine spaghetti western anni 70. Esatto. Perché praticamente era la sua piccola fortuna, è stata la mole, perché a quei tempi nei western americani andava molto di moda il messicano Sancho Fernandez, che era effettivamente un messicano vero, e nei spaghetti western, dove i nomi venivano dati tutti in simbologia americana ma erano tutti italiani, mancava un Sancho Fernandez, e siccome mio padre aveva la mole piuttosto importante, anche il fisico adatto a fare, diciamo così, non la controfigura ma ad assomigliare a Sancho Fernandez, fu scritturato tramite l'amico Giuliano Gemma a fare alcuni film spaghetti western che poi dopo sono diventati di moda, sono durati poco però sono stati... Ricordo bene poi Anchise era solito fumare il sigaro. Sì, certo, fumava quindi... il toscano, un toscano tagliato metà il pomeriggio e metà la sera. Bellissimo. Faremo una puntata anche su questo prima o poi. Andiamo, ma tornando con la Ferrari. È stata una bella parentesi. Il toscano lo fumava quando non era di moda. Ecco, poi dopo è diventato di moda. fumava tutti i sigari, in particolare il toscano, però qualsiasi tipo di sigaro. Spesso quando andava a lavorare in Spagna, sempre nel settore cinematografico, riportava dei sigari particolari, che negli anni 60 non è che ci fosse molto questa moda. Certo. Lui ha fumato per un periodo la pipa e poi il sigaro, poi dopo il sigaro è diventato un culto, un oggetto di culto, ma veniva fumato in tempi non sospetti. Bellissima parentesi, faremo veramente anche una puntata su questo. Tornando invece ad altri soci fondatori, furono Ferruccio Fanotti, Il Nicchio, poi ci correggerete o aggiungerete, Sonnati Giorgio, Lo Conte, Paganelli Franco, il Cencini di Santa Luce. Sì, posso dire una cosa? Puoi dire tutto quello se che vuoi. Se la tua trasmissione fosse sentita a Busto Arsizio, non so come potrebbe essere tradotto Il Nicchio. Beh, Il Nicchio non può essere tradotto, non deve essere tradotto. E ti dico che abbiamo anche degli ascoltatori in Svizzera, CH, e dopo spiegheremo, e anche più su, perché i mezzi ci aiutano con internet e le applicazioni. E grazie allo streaming. E con lo streaming, di cui Marcello non ignora qualunque tipo di cosa, riusciamo a farci sentire fino là. E dunque, abbiamo appunto fatto alcuni nomi dei soci fondatori, poi negli anni si sono uniti ancora altri, il Jimmy l'americano, giusto, il Mostacci, Marcelli, Casini di Sinalunga, che aveva una Ferrari 308. Sì, era l'unico che aveva la Ferrari, tutto il gruppo. Tutti gli altri avevano i sogni. Ed è rimasto. Ecco, però noi ci fermiamo qui nel racconto da parte nostra, perché dopo il prossimo brano inizieranno passeremo a parlare la parola Alessandra e Lidio e faranno tutto loro. Ma sono ansioso di sentire il prossimo brano. Viabilità. No, questo è bellissimo. It's a bitter terzo brano della scaletta di stasera, appositamente scelto da Simone come dedica per il babbo. Ma questo è il momento perché sa che conferma. Allora Lidio, lo lascio annunciare a te questo brano. No, perché so i verbet, però. Allora, avete appena ascoltato. No, è la suoneria che ho nel telefonino. Esatto, avete appena ascoltato la suoneria del telefonino di Lidio. Il titolo si chiama La suoneria che ho nel telefonino. La suoneria del Lidio. Momento sincero. Credo che Simone non me ne vorrà se lasciamo questo titolo. Sì, ma poi. A proposito di titoli, noi scopriamo che abbiamo qui degli ospiti stasera. È veramente una cosa incredibile di quanti spunti ci dà per conoscere meglio i nostri ospiti. Ma torniamo un attimo all'argomento. Sì. Nel 1983, quando è stato creato il club Ferrari Valdichiana, se ho detto giusto, correttamente giusto, la dicitura. Raccontateci per bene dalla vostra esperienza come è nata l'idea, la passione che allora, vi legava. Allora guarda, parlo prima io perché magari è partita la prima. No, anche perché sei più adulto, quindi. No, sei più adulto. Maturo. E Arrigo Vignozzi mi parlò una sera che aveva degli amici che avevano fondato un club Ferrari. Siccome la passione per la Ferrari, per l'automobilismo in generale, però specialmente per la Ferrari, essendo italiani, la Ferrari essendo, diciamo, il fiore all'occhiello dell'Italia, mi disse: ma perché non facciamo un club anche noi? E mi ricordo che a casa, proprio come quello che citavi te prima, la sua mamma, la Smara, sì, si decise di telefonare alla Ferrari per sapere qual era la prassi, la procedura. Ancora Alessandro non era stato interpellato, perché lui era il nostro esperto motorista. Sì, e allora si telefonò alla Ferrari, mi ricordo telefonai io e gli dissi, dico vorrei parlare con qualcuno, con un responsabile, perché vogliamo sapere per fare una determinata cosa. E mi rispose uno che mi disse, dice: chi siete? Dico, ma no, anzi gli disse, dico, lei chi è? Dice, no, dice, voi chi siete? Dico, no, vogliamo sapere per fare il club Ferrari Valdichiana. E lui mi disse: io sono Franco Gozzi. Che poi magari a parecchi non diranno nulla, certo. Però Franco Gozzi era il braccio destro, il secondo di Enzo Ferrari. Solamente il segretario di Enzo Ferrari. Stretto nonché collaboratore. Direttore sportivo. Stretto collaboratore. Ah, come fu accettata la. No, ma lui capì che insomma la nostra era una cosa genuina, insomma, non è che spontanea. Era da passione. E quindi ci passò questo responsabile dei club che si chiamava Valerio Stradi, mi sembra. Che ci disse come fare, e quindi noi se lo ringraziamo, dico, va bene, ci faremo sentire. Dopodiché mi ricordo sempre alla fiera di Cesa, fine agosto, sì, esatto. Io lo trovai e disse: guarda Sandro, si potrebbe fare una cosa così, perché sapevo che lui insomma già correva con le macchine, auto d'epoca, insomma. No, certo. No, all'epoca non era, cioè, ora sono diventato all'epoca non era un pilota, quello che è più dentro, quello che era più dentro di tutto, certo, insomma, il discorso cosa. Accettò, e quindi si fece questa la prima riunione. Si fece. Ecco, fosti già numerosi già dalla prima riunione, nel senso prese subito. No, diciamo prese subito, però siamo partiti logicamente piano piano, sempre più, fino ad arrivare al nostro punto massimo, che era circa 300 persone. E è durato una decina d'anni. Mm-hmm. In questi 10 anni si è fatto molte cose, sì, anche belle. Ne parleremo sicuramente. Infatti, sì. Iniziamo subito a fare. Vedi qui davanti. Ho già pubblicato la foto. Esatto, l'adesivo identificativo del club Ferrari Valdichiana. E devo dire che siamo stati uno dei club tenuti in considerazione da Maranello. Perché eravamo attivi, ci facevamo sentire spesso, poi o almeno una volta ogni mese e mezzo, una volta ogni 2 mesi andavamo su, portavamo cesti con, sì, l'olio d'oliva, prosciutto. Era molto apprezzato. Noi le portavamo per il commendatore, cioè per Enzo Ferrari, poi dopo magari se le prendeva qualche un altro. Però questo qui lo facevamo perché noi non è che... era solamente un dono, ma era un tornaconto, certo, perché certo. Loro quando gli si chiedeva qualche cosa ci tenevano in considerazione, gli si chiedeva la Formula 1 per portarla giù, e l'abbiamo ottenuta due volte, quella di Villeneuve e quella di Mansell. E quando gli chiedevamo di andare a vedere lo stabilimento, c'era una lista lunghissima, noi si passava avanti a tutti, cioè questo qui era, cioè, era tutto, aiutava, diciamo, aiutava, era proprio ideale. Andavamo una volta al mese, una volta ogni 2 mesi su a trovarli, e loro portando della roba, quindi come tutte le cose era un buon biglietto da visita, ti imparano a conoscere, quindi inizia una relazione e è una convenienza, cioè loro vedono un club che si dà da fare, certo. Poi ci saranno i riscontri, perché poi tutte le volte che andavamo su portavamo, ci faceva caricare dei pezzi di Formula 1. Infatti sapevo, vi volevo fare proprio questa domanda, so che negli anni poi avete raccolto un bel po' di cimieri, chiamiamoli così, cimieri, un sacco di roba, ecco, esatto. Questa ancora dove si trova? Penso chi nel garage di Alessandro. Ah, ecco, Alessandro. Quindi potremmo venire a fare una visita solo per vederla, diciamo. Sì, un po' polverata. Potrebbe essere l'occasione giusta per spolverarla, mettere al posto. Noi magari veniamo e la spolveriamo. Ci sarà un musetto, no, ci sarà, ci sarà le Alettoni della T5, ci sarà le fiancate delle prime turbo, la minigonna, certo, certo. La turbina del motore, ci sarà turbine, pistoni, ci sarà gomme, cioè c'è un po' di materiale. Addirittura io in garage ho una gomma che molti, ma poi ci sarà una cosa noi grossissima e molto bella autografata. Sì? Ce l'ha questo signore. C'ha il libro che ci ha regalato Enzo Ferrari, dove c'è scritto, me lo ricordo, a Ferrari Club Valdichiana di Viola, perché lui scriveva solo in viola. Bravo, è firmato, firma autografo Enzo Ferrari. Allora ti dico, quello è un cimelio. Ti dico come andò quella cosa lì. Sì. Una mattina, sempre in queste, ce l'ha il signor Grazi, pensa, no, che io non me lo ricordo. A futura memoria ha confermato. Ma è giusto quello che custodisca lui. L'ultimo presidente. Infatti dopo volevo domandarvi anche questo. È pro tempore il possesso, non è definitivo. Ha fatto per la paura perché non sparisse. Se l'ha lui è di tutti. È lì, è del club, non è mio. Lì però del club, certo, certo. E ti dicevo prima, quando una volta al mese andavamo su a conoscere per farcela, una volta tra le prime sarà io, Arrigo, Bignozzi e mi sembra, forse no, c'era Lo Conte Michele, sì. Era una giornata invernale, proprio invernale, tipo un nebbione pauroso, no? Allora noi eravamo fuori che parlavamo con questo Valerio Strada, e arrivò a una certa ora Enzo Ferrari con l'autista in una Renault 18 grigia. Penso. Infatti io gli dissi, ma come mai arriva una Renault 18? La Ferrari, insomma, è scomoda. O una Fiat, ma quantomeno. Sì, è una cosa un pochino strana. Però mi ricordo, disse, no, ma lui ha altre macchine, però vuole, in questo modo passa inosservato. Ah, certo. Città, eccetera, eccetera. Allora lui scese, l'autista gli aprì lo sportello, scese Enzo Ferrari, ci guardò, saremmo stati una trentina di metri fuori dal cancello, lui stava entrando, chiamò questo Valerio Stradi per domandargli chi sera, no? Dopo ritornò questo dirigente, insomma, della Ferrari, ci disse, mi ha chiesto chi eravate, dice, ora mi ha detto se posso andare nel suo ufficio, sicuramente per regala qualcosa. E nell'83 lui pubblicò una serie limitata di 2500, una tiratura di 2500 di questi libri, che si chiamava Piloti che gente. Sì, sì, sì. Che questa serie limitata non era in edicola, non era a vendere, era di colore sul grigio. Infatti questo Valerio Stradi entrò dentro l'ufficio di Enzo Ferrari, riuscì e disse, ragazzi, mi ha detto di regalarvi questo libro autenticato, e infatti c'era la dedica. Beh, bellissimo. Poi sono state fatte, mi sembra, 4-5 altre tirature più che vendute nelle edicole, però di colore rosso. Come vedete, anzi come sentite, sì, staremmo già ore ad ascoltare, però ogni tanto continuiamo a parlare, però ogni tanto, sai, Simone vuol mettere un brano, anche un po' di respiro. Vabbè. Però stasera è partito benino, Poi solo migliorare, peggiorare, ma migliorerai sicuramente. Appears and love is its name. And love is a stranger who'll beckon you on. Don't think of the danger, or the stranger is gone. This dream is for you, so pay the price. Make one dream come true, you only live twice. Stranger who'll beckon you on. Don't think of the danger, or the stranger is gone. This dream is for you, so pay the price. One dream come true, you only live twice. Make one dream come true, you only live twice. You Only Live Twice, questa è una cover interpretata in questo caso da Mark Lanegan e inizialmente interpretata da Nancy Sinatra ed era la colonna sonora di Agente 007, Si Vive Solo Due Volte. Pensa, ma comunque non è male. Che due volte è sempre meglio di sì, sì, no, no, guarda, Simone è una continua scoperta ultimamente. Beh, sì, ringrazio. Sì, sì. Quelle pasticchine che prende la mattina, vedo che fanno. Infatti, vogliamo... L'ho mandato in terapia dal mio analista. Con lui ha funzionato, certo. Con te niente, vabbè. La terapia mia è quella più lunga. Stiamo parlando del club Ferrari di Foiano della Chiana, che ha avuto ha visto la propria nascita nel 1983. E volevo chiedere ad Alessandro, continuiamo a parlare qui, veramente capisco che potremmo parlarne per ore. Diciamo che la cosa che è rimasta un po' nella memoria di tutti sono gli eventi che avete organizzato in quegli anni, tanti davvero, ne facevamo un piccolo riassunto anche prima fuori onda. Diciamo, quali sono quelli che ti hanno dato più soddisfazione, che ti ricordi di più, che secondo te hanno anche avuto più valore? Sai, quando c'è la passione, ti organizzi qualcosa, ti danno tutti allo stesso certamente modo. Quelli che hanno avuto più riscontro. All'epoca, al contrario di oggi, c'era la possibilità da parte dei club di organizzare senza nessun tipo di vincolo che ora ti impone la Ferrari, eccetera. Tutto molto più libero, perché la Formula 1 non aveva il successo, tra virgolette, che ha oggi, perché all'epoca andavano altre discipline motoristiche e quindi anche la Ferrari o i team avevano interesse che si parlasse di loro, perché c'erano altre discipline sportive automobilistiche che forse erano superiori come pubblico, come interesse alla Ferrari, quindi si poteva fare molto di più, cosa che oggi non si può fare. Noi eravamo animati da tanto spirito organizzativo, sia sotto il profilo automobilistico che proprio sotto il profilo del gruppo, perché il gruppo era amalgamato bene, era un gruppo rumoroso, c'erano persone divertenti, ci si divertiva anche, e noi abbiamo fatto tante cose che all'epoca erano un pochino, diciamo così, in voga, o perlomeno erano alla nostra portata per poterle organizzare. Noi abbiamo portato due volte i go-kart, cosa impossibile per un paese fare un circuito cittadino, però noi con alcune conoscenze, perché all'epoca Donzelli era vicepresidente della Federazione Italiana Karting e sensibilizzato da noi e vista, diciamo, la nostra grande disponibilità, ci dette la possibilità di fare un piccolissimo circuito cittadino. Dov'era? Dove lo faceste? Era praticamente via della Resistenza, praticamente veniva fatto il giro intorno alla fontana. Quindi Piazza Garibaldi. Perfetto, sì, era. Tieni conto che erano 60 centimetri. Solo i 60, perché c'è un'omologazione. Quindi per i ragazzi, però venivano da parte Italia, dei circuiti, c'era fino a un determinato tipologia di circuito cittadino, ti veniva data la possibilità di organizzare per tipologie di car. Certo, quindi certo. Noi, siccome era molto breve, si poteva fare i 60, però furono due anni, due grandissime esperienze, sì, belle, sì, che noi facemmo in maniera, penso, bellissima, perché tra l'altro per avere nulla osta anche della FIC vuol dire che l'organizzazione deve essere tra fatta bene. Si metteva in palio al primo, se ti ricordi, anche un bel premio in soldi, cosa che non lo sì, all'epoca c'era la possibilità, quindi veniva delle... gente da Napoli, Avellino, su dal Piemonte, veniva sì, questa era, ragazzi... era una gara iscritta a livello calendario nazionale, cioè, quindi venivano tutti, tutta gente, questo che era uno dei, degli eventi. Poi abbiamo fatto delle gingane, abbiamo portato qui Luchi Battistolli tramite l'amico Piero Comanducci col Ferrari 308, che ora a distanza di tempo ha iniziato a correre nelle gare storiche rally. Abbiamo fatto salire tantissime persone su questa macchina, che all'epoca era pressoché impossibile per capire come si può stare dentro una macchina da rally. Cioè, le iniziative sono state tante. Abbiamo fatto una mostra di auto con una Formula 1 e altre auto da corsa, abbiamo portato due volte la Formula 1, quella di Villeneuve e quella di Manzi, abbiamo fatto scene sociali. Aspetta, una alla volta, perché ti voglio fare un paio di domande. Cioè, voi telefonavate in Ferrari e dicevate: pronto, vogliamo una Ferrari? No. Cioè, all'epoca veniva messa a disposizione un manichino, perché la macchina che veniva data era un manichino, cioè esisteva la macchina, però il motore era vuoto, c'era solo le parti esterne. Non è che si poteva mettere in era senza esteticamente cambio. Era quella, sì, era quella, sì. Era una T, cioè era come la vedi alla televisione, era un manichino, e questo manichino veniva dato di disponibilità settimanali a tutti i club. Te facevi la domanda, ti dicevano che per quella settimana c'era, dovevi fare delle pratiche burocratiche, però, assicurative, il discorso che ti dicevo prima, eccetera, e veniva consegnato. Qualche volta ci hanno fatto passare avanti rispetto a altri, sì, c'era questa... quell'olio d'oliva, sì, insomma, ha funzionato. No, c'erano anche dei costi importanti, sì, che immagino. Noi all'epoca, essendo tanti come soci, si potevano sostenere. Non è che l'organizzazione di queste manifestazioni era gratuita, erano sempre investimenti come oggi, però erano investimenti che si potevano fare perché il ritorno c'era, i costi forse erano più bassi, il ritorno era superiore, quindi noi si compensava il fatto che l'organizzazione si poteva fare benissimo, capito? Ma poi noi abbiamo avuto come ospite, tramite l'amico Berardi di Perugia, Jacques Villeneuve, che è stato campione del mondo e ha visto la 500 miglia di Indianapolis. All'epoca era un bambino, perché correva in Formula 3, stava a Perugia, e per questa amicizia che io avevo con questa persona, che era all'epoca il direttore dell'autodromo di Magione, ci portò Villeneuve figlio, che era un bambino, iniziava a correre, però dopo nella scena sociale, certo, che si nelle scene sociali si faceva, però è diventato campione del mondo e ha vinto 500 miglia, cioè, e quindi potete Alessandro dire, cioè, noi l'abbiamo poi abbiamo avuto due volte Alessandro Nannini, che lui una volta non ha riconosciuto, ecco, infatti a un ristorante, ma eravamo al ristorante io e lui, sotto il profilo economico si faceva il conto dei costi, le persone, prima della scena, prima della scena nella reception del ristorante, per vedere se i conti tornavano. E io, tramite Leonardo Todisco Grande, che al quale mandiamo un saluto, che io già conoscevo, gli dissi: ma si potrebbe far venire a cena Alessandro Nannini? Sì, te ci penso io. E telefonò Alessandro Nannini. Era una serata un po' particolare, noi facevamo i conti da riavere per vedere come La scena saremmo stati 200, sì, tantissime persone. Cioè, arriva questo ragazzo, entra, era solo, noi eravamo lì, entra, ci guarda, dice: qui la scena è qui la scena del club Ferrari. Dico: sì, e lui ma fa: non c'è più posto. Ma che vuole questo qui? Dico: ma come che vuole questo? Ma lo vedi chi è? Ma chi è? Lui si mise a ride, ci venne incontro. Dico: ma no, disse, scusa, non ti riconosco. Era un coetaneo nostro, però era non poi era un po' dimesso. E lui disse: ma questo che è? Come da dire, hanno già tutti prenotato. Arriva dopo pochi. È venuto due volte lui a fare. È venuto Larini, che ha corso. Certo, con la Ferrari. Sì. Queste scene conviviali, diciamo, anche se non mi sbaglio, anche i meccanici della Ferrari spesso sono venuti. Poi, tramite un altro mio amico, ho fatto venire degli amici inglesi che correvano nel superturismo, non in Formula 1. Sono state scene dove ha partecipato gente che poi all'epoca erano giovani come noi, loro hanno sfondato nell'automobilismo, noi siamo qui a fare a raccontare. Però ma dopo il brano però ci racconterai, perché sono cose di pura passione, ma ci vuole anche chi tramanda la memoria. È giusto. Abbiamo avuto Coloni, che poi Coloni ha fatto la GP2, Paolo il figlio, il lupo che ha fatto la Formula 1, cioè abbiamo cioè, noi si è fatto delle cose talmente grandi che forse non è stato neanche recepito l'importanza. Si è fatto passare due volte la Coppa d'Italia, gara internazionale. Ci fermiamo solo un attimo. C'è un aneddoto sulla Coppa. Sì, infatti dopo allora, lasciamolo un attimo sospeso, così lasciamo i nostri ascoltatori un po'. Anzi, ce n'è due di aneddoti. Devo passare da questo. No. Diciamo come dice Peraccio, devo passare da questo. Sono pure. È un gruppo poco conosciuto dal grande pubblico, ma motivo sicuramente c'è, andiamo ad approfondire. Però il nostro Simone mi segnala che comunque il gruppo American Blues è stato uno dei primi più importanti e influenti gruppi della scena rock blues psichedelica americana degli anni 60. Ecco, già quindi parte nella psichedelia americana, sì, ti giustifica già alcune cose, sì. Pensavo avessero recuperato. Prego. Punti. Siccome siamo molto presi dal racconto di Alessandro De Lidio, riassaggiamoci agli aneddoti. Sì, ma volevo prima, siccome non riusciremo a dire tutto quello che vorremmo, ma come se sempre se ne fa un'altra, vedi Alessandro. Si è prenotato per un'altra puntata. Ci stiamo scordando anche un po' di ricordare un po' di cose, ma va bene. Facciamo solo un po' di saluti agli amici che ci stanno mandando messaggi e mi piace su Facebook. Vai. Tamara, Virginia, Cecilia, Ascanio, Alessandro. Addirittura abbiamo come nuovo amico su Facebook la Pallavolo di Foiano. Quindi che salutiamo. Vai. Assolutamente tutta la squadra, certo. Rachele e quanti altri, insomma. E tutti gli altri che per motivi di tempo non possiamo nominare tutti. Soprattutto fan numero uno. Parlando e riparlando, abbiamo anche scoperto che Alessandro ha non solo una storia e una passione. Una passione, ma anche dei risultati tangibili. Un notevole palmarès. Infatti, Alessandro, vuoi dirci qualcosa? Io sono un appassionato di automobilismo da sempre. Finché sono stato piccolo sono andato a vedere, quando ho potuto ho iniziato, e ho iniziato a correre il 16 aprile del 1978. Ero proprio che era un bambino. Ecco, bravo, un bambino. Era un bambino, no, era una domenica. Si corre di domenica. Dove correvi, però? Ho fatto la prima gara, io all'autodromo di Maggiore, nel trofeo Renault 5 Kit. Praticamente era un trofeo monomarca dove si aveva tutti le Renault 5 Kit 1300 LTS preparate con una preparazione standard che dava la Renault. E le macchine erano tutte uguali, si partiva 20-25 macchine, si faceva le batterie e poi la finale. E praticamente era un trofeo per i giovani, era un promozionale, diciamo. E io ho iniziato a correre lì, poi da lì sono passate altre discipline. All'epoca facevo delle gare, dei campionati in maniera... Di velocità, ci dicevi, giusto? Velocità, sia in pista che in salita. Poi dopo, lì non ho vinto niente, ho fatto solo... ho vinto un campionato sociale della scuderia Benelli e poi ho fatto dei piazzamenti a livello campione italiano montagna, ma non ho vinto niente di importante. Poi dopo, siccome sono diventato un po' storico io, ho iniziato a correre con le auto storiche a metà degli anni 90 e con queste auto qui invece ho avuto più soddisfazioni perché mi sono impegnato un pochino più, diciamo così, visto anche l'età e la possibilità, in maniera un pochino più mirata. E per 2 anni ho fatto nelle gare di durata insieme a mio fratello, ho fatto il campionato europeo e nel 2000 ho vinto il campionato europeo della mia classe. Campionato europeo della mia classe, si chiamava un campionato FIA, era, ora non c'è più, ma prima era FIA, cioè era della Federazione Internazionale Automobilistica, era un campionato riconosciuto con delle classifiche. E l'ho vinto, ripeto, perché si facevano gare di durata di un'ora insieme a mio fratello in coppia, perché si correva in 2 mezz'ora per una. E quello che è stato bello è che sono riuscito a vincere in 2 autodromi, anzi 3 importanti, perché ho vinto all'Oldtimer Grand Prix a Nürburgring, Germania, poi alla Coppa Intereuropa a Monza e poi alla Uno Ring, che sarebbe Zelto e che dove ha corso anche la Formula 1. Quindi piste che io vedo solo sulla PlayStation. Praticamente io sono un torneo di biliardino a Patrigno. se ne parla, era di singolo o di coppia? No, perché certo, se si parla, se dal Nürburgring, se va al torneo di biliardino a Patrigno, io mazzo. No, hai ragione, però ormai abbiamo passato la palla a Lidio, quindi Lidio ci deve raccontare alcuni aneddoti di sue, diciamo, performance. No, se vuoi aneddoti te ne racconto io, perché siccome l'ho vissuto in prima persona, perché ero al fianco, perché Lidio, quando gli dai il, diciamo così, il microfono, diventa... Allora, c'era una gara appunto a Foiano, che cos'era? Era la Mille Miglia, la Coppa d'Italia. Coppa Italia, però, cioè, per far capire di magari, ecco, l'autostorica, tipo la Mille Miglia attuale. Però la Mille Miglia attuale è di regolarità. Quella era una gara di per velocità. Per far capire il tipo di macchine, cioè le macchine sono quelle, sono, insomma, storiche, esatto. Ricordo c'era il Ferrari Testa Rossa, la vera Ferrari Testa Rossa con Giulio Dubini, no, che era uno dei patroni, insomma, la manifestazione era bellissima. E passava per Foiano. Passava e se riuscì, c'era un controllo, cos'era Foiano? Se riuscì a farla passare. No, il primo anno si è fatto il controllo timbro con la Rullo Filatelli. Praticamente dovevano fermarsi a Foiano obbligatoriamente, quindi venivano dal lago, dall'autodromo di Maggiore, venivano su per la strada di Via di Cortona, entravano in paese e lì dove c'è Piazza Matteotti, c'era la scalinata, insomma. C'era un conto, se dovevano fermare, noi gli si rilasciava un timbro che loro dovevano ufficializzare nella scheda. Certo, testimoniava il passaggio. Il passaggio, bravo, e poi ripartivano. Poi tra l'altro avevamo messo anche persone, caratteristiche, vestite, come erano, c'era il gruppo della Rusticana. Rusticana, esatto. Era una cosa, e io facevo lo speaker, ma anche non è che ero sempre, anche quando si faceva le scene, ero io, che magari lui non lo voleva era fare. Era più adatto, si voleva mettere in evidenza. Non sai quanto ti possiamo capire, di protagonismo, ma lo dici a noi. Cioè, se nessuno lo voleva fare, lo facevo io. Era sempre così, venne fuori che... Raccontiamo bene, che c'erano tante macchine importanti, anche perché l'80% non erano tutti equipaggi stranieri, addirittura. In che anno eravamo, perché va contestualizzato? Metà anni 80, all'epoca ci fu un ringraziamento di un equipaggio australiano al comune, che era stato bene, sì, una cosa importantissima che purtroppo non è stata recepita, però era una cosa importantissima. E c'era... Noi avevamo l'elenco di tutti, perché il passaggio veniva numero per numero, uno dietro l'altro, e lui giustamente con l'altoparlante diceva all'equipaggio, arriva l'equipaggio. Leggeva e diceva. A un certo punto arrivò un equipaggio che era su una Abarth Mono 1000, perché okay, si chiama così, perché è una 1000, ma Mono 1000. E siccome la gran parte dei partecipanti erano tutti inglesi, con Austin Healey, Lotus, MG, Triumph e tutte, lui si era un po' fonicamente inglesizzato. Quando arrivò la Mono 1000 di un equipaggio inglese, ma su una vettura italiana, lui non disse Abarth Mono 1000, disse Abarth Mono Mai. Nessuno se ne accorse, ma io un pochino l'ho ripreso. Guarda Mono 1000, e dicevo, vabbè, passiamo. Le macchine erano, saranno state 150-200. Continua a passare macchine, dalla Mono 1000, dalle cilindrate piccole, se passa le cilindrate più grandi, inizia a passare una Ferrari, due Ferrari, tre Ferrari. E lui mi continua a dire, arriva una short, un SVB Ferrari 275 con un equipaggio cecoslovacco. E mi diceva, io facevo il controllo, timbro e timbravo. Ecco un'altra Ferrari, un altro equipaggio cecoslovacco. A un certo punto passa 3, 4, 5 Ferrari, tutti equipaggi cecoslovacchi. Come all'epoca ancora... c'era la cortina, c'era la cortina di ferro, esatto, se era nell'est, dico, ma è possibile che in Cecoslovacchia hanno tutte queste Ferrari? E si sanno, guarda qui, mica lo dico io, c'è scritto qui, dice, guarda, tutte CH, sono tutti svizzeri o perlomeno con residenza svizzera. Che lui aveva interpretato, ma metà del panorama delle auto erano tutti cecoslovacchi. Possiamo dire che Lidio era avanti almeno una quarantina d'anni. Sì, lui aveva fatto il precursore delle varie guerre, motoristicamente, dello scioglimento, dell'abbattimento del muro di Berlino. Però era rimasto coerente. Non sapevo che era svizzero, però in quel momento lì effettivamente era molto è ripreso da però tutto. Quella è stata una, due volte sono passati, poi non l'hanno fatta più per problemi logistici, però è stata una delle manifestazioni Lullo filatelico più belle che possono, però non è come se passasse oggi da qui la 1000 miglia, la stessa cosa, però certo, non era recepita, perché purtroppo se manca la cultura del settore anche gli eventi gli si dà il peso che gli si deve dare, e all'epoca non gli veniva dato il peso che doveva, perché c'erano altre città, non faccio nomi, che per il passaggio della Coppa d'Italia avrebbero anche le amministrazioni pagato economicamente. Noi per la conoscenza di Berardi non pagavamo niente, però ripeto, qui non è, c'era tanta gente, però ecco, forse non gli veniva dato il peso, l'importanza che gli doveva essere data, che gli davamo noi perché si faceva pubblicità eccetera, però forse fu vissuta anche un po' con fastidio, diciamo, è stata vissuta purtroppo con fastidio, sì, ma questo per mancanza di cultura di ignoranza dei personaggi, perché tutte le cose nuove poi alla fine, perché facevano rumore, perché c'era le macchine assistenza, si chiudeva la strada, c'era un piccolissimo disagio, ma diciamo così, la partecipazione delle macchine, dei personaggi, del tipo di evento erano in maniera esponenziale superiori a quello che era il disagio. Però purtroppo qui ne vale anche un po' di mentalità, cioè non è che l'evento nuovo e l'evento importante che crea disagio deve essere per forza bistrattato. Se l'evento nuovo va accettato per il valore, certo, che ha, poi certo, se piace o non piace, però va rispettato anche a chi piace e il valore dell'evento, perché se non piace uno va da un'altra parte, non è mica obbligato a stare lì. E noi in quegli anni si è fatto tante cose che forse erano anche più grandi di noi, perché lo spirito pionieristico era tanto, la passione era tanta, la Formula 1 non era quella di oggi, che è tutto sotto l'aspetto del business, ma all'epoca doveva crescere, era proprio sotto l'aspetto, diciamo, della passione, perché c'era chi correva ancora nel sistema pionieristico con le macchine a noleggio, cosa che oggi non esiste più, c'erano i garagisti, macchine, c'erano alcuni team inglesi che le facevano sotto casa le macchine, anche se poi non andavano. Oggi è completamente diverso, quindi anche lo stare dietro come club alla Formula 1 era molto più semplice. Oggi per esempio non puoi fare più come si faceva una volta il logo nostro, devi rispettare il logo loro, devi organizzare tutto sentendo gli owners, non ti puoi muovere perché c'è delle responsabilità oggettive anche a livello legale, sei perseguibile se fai delle cose che la Ferrari non ammette. Cioè è diventato un mondo anche per i club, perché ho assistito alla riunione mondiale che fu fatta quando fu cambiata appunto la legge per essere Ferrari Club o meno, infatti noi non abbiamo più partecipato. E quindi oggi è diventata una cosa burocraticamente troppo complessa. All'epoca invece serviva ai team, perché ripeto, siccome la Formula 1 non aveva il successo monopolizzato che è stato costruito che ha oggi, perché oggi chi ha gestito la Formula 1 ha distrutto tutti i campionati e la gente, gli appassionati sono costretti a guardare la Formula 1, ma esistono i campionati molto più belli e più avvincenti della Formula 1. Ma basta andare in America, ma anche in Europa, tipo l'American Le Mans Series, ci sono tante cose bellissime. Per esempio, io ho avuto la fortuna per lavoro di assistere alla 24 ore di Le Mans, cioè vedere la 24 ore di Le Mans è come vedere tutto il campionato mondiale Formula 1, cioè, in un giorno. È un evento, praticamente vivi tutta la settimana, perché lì si va in mezzo alle macchine, in mezzo ai piloti, i piloti fanno una spilata, le verifiche le fanno in città, la 24 ore è un evento bellissimo, puoi fare tutto il circuito a piedi, cioè lo vivi sotto l'aspetto sportivo. In Formula 1 non vivi niente, perché è tutto blindato, è molto folklore. All'epoca invece, quando siamo nati noi, non era così, perché la Formula 1 aveva bisogno di crescere e di abbattere tutte le altre discipline sportive, perché andava di moda i prototipi, andava di moda. Ora non esiste più niente, perché diciamo il vertice dell'automobilismo sportivo ha fatto sì che la Formula 1 andasse avanti, tutti si sono concentrati lì e è diventato un sistema di potere. Però sotto l'aspetto sportivo, se uno segue la Formula 1, c'è molto meno di quello che c'è in discipline anche minori, che sono tantissimi altri campionati che non tutti conoscono. Perché? Perché a livello di informazione viene solo uno informato della Formula 1, mentre gli altri campionati vengono messi da parte. Ti dobbiamo interrompere. La passione trasuda. Io, se vuoi, ritorno. Lo faremo sicuramente. No, signorina, ancora ci sarebbe per arrivare ai giorni nostri. Ci sarebbe molto, molto. No, andiamo con l'ultimo brano, poi ci salutiamo. Sicuramente la rifaremo un'altra trasmissione, ma comunque ne parliamo ancora dopo. Io dico sempre la verità. Cioè, quello che ti dico corrisponde alla verità. Perché uno vede e pensa ci sia solo quello. C'è quello perché quell'altro non lo fanno vedere. Va perché bene. Ripeto, se te vai a vedere la 24 ore di Le Mans, stai bene 10 anni. I colori, cogliere le rose a piedi nudi e poi con la sciarpa stretta al collo bianca come mai. Ma bella, bella, comunque bella. Quando l'arcobaleno era in fondo ai tuoi occhi, quando sotto al tuo seno l'ira avvelenava il cuore tuo, perché tu vedevi un'altra donna avvicinarsi a me. Prima ancora che io capissi e riscegliessi te, tu eri bella. Vestita di pioggia, con lo sguardo stravolto da una notte d'amore, siediti qui, non ti chiedo perdono perché tu sei un uomo, coi capelli bagnati, so che capirai, con quei segni sul viso. Mi spiace da morire, sai, coi tuoi occhi arrossati, mentre tu mentivi e mi dicevi che ancora più di prima tu amavi me. Tu eri bella. Lucio Battisti, comunque bella. Questo era il lato B del celebre singolo I Giardini di Marzo. Marzi, ti è piaciuto questo? Pensa com'era il lato A. Se questo è I Giardini di Marzo. Io, Simone, potrebbe veramente entrare nelle mie grazie. Bravo, bravo. Battutona. Orbene. Orbene. Club Ferrari. È volata, è sfrecciata la puntata veramente, con la promessa che ci sarà un secondo tempo, diciamo, ci fermiamo per un pit stop e faremo sicuramente un'altra puntata, perché abbiamo ancora tanti aneddoti da raccontare, eventi a cui avete ancora organizzato. Noi per il momento vi ringraziamo Lidio, Alessandro e il Mario Poltronieri della Val di Chiana. Ringraziamo tutti gli amici a casa che ci hanno ascoltato, ascoltatori, quelli che ci ascolteranno domani e sentiranno il podcast di questa puntata sulla nostra pagina Facebook Piazzalta con calma Radio quando F, arriva dal 1976 i jingle in diretta, ricordiamo YouTube tra qualche giorno. E poi anche però gli appuntamenti sempre sulla pagina Facebook con una serata da leone e gli appuntamenti e consigli per il weekend. Per ogni urgenza c'è il cellulare di Enzo. Mi chiamate, perfetto. Non c'è problema. Abbiamo finito. A posto, ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie ancora. Ciao. Buon ascolto sulle F frequenze. Avete ascoltato Piazzalta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino, alle riprese cinematografiche Paolo e alla conduzione tecnica Simone. Uni.